comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il presidente del Palermo Zamparini ha detto che lei rischia di montarsi la testa. È così? Se la sta montando? Se vuole... Palermo, dai! Eh? È una conquista dell'uomo. Palermo? Perché? Sulla cometa, grazie alla sora Rosetta. No, ma non... non... Che saluto! Salutiamola, ma non c'entra niente. Dico, a Zamparini cosa risponde? Cosa risponde? Ma... inizio dalla prima, dall'ultima. Ma deve chiedo l'aiuto da casa, dai, aiutiamo, no, dai. Guardi, la indovino con un... Chi sei, Carlo Conti? No, non sono Carlo Conti, non sono, no. Hai fatto il bagno nella candeggina? No, non l'ho fatto, tra l'altro, se volesse invece... Se lo ricorda il film? Ma quale, no? La grande Sofia Loden. Loren. Il grande Loren. Mastufello Mastrotagni. Capolavoro! Sì. Alper Deng Xiaoping. Vede? No, io voglio dire una cosa, sì, no? Ecco un attimo, se volesse dire... No! Beh, io non ci capisco de calcio. Vabbè, non ci è... tengo a restare ignorante perché sì. Il calcio è uno, nessuno. No, ma non... Che c'hai 100.000? No, a parte che uno, nessuno è... Franco Piantanini, il nostro autore, Fabio Cantadoni in regia, Daniele Buonamici in redazione, voi al telefono 800 24 00 24, qual è l'intruso? Ieri abbiamo sentito Ferrero, oggi abbiamo sentito Ferrero, uno dei due è Crozza, qual è Crozza? Crozza è quello che fa meno ridere, e cioè quello di oggi. Allora, qua, dov'è l'intruso? Scopri l'intruso, può essere un giochetto di oggi. Abbiamo scovato Pardo, per la cronaca, l'appello di ieri ha avuto successo, tra pochi minuti sarà collegato con noi, subito dopo il traffico. Leggo oggi sul Corriere della Sera questa lunga e molto interessante intervista a Massimo Moratti, da cui si ha la conferma di molte cose. Racconta di quando, appena diventato presidente, aveva un'idea, cioè quella di prendere Cantona e Mancini. Poi Cantona fece quello che fece a un tifoso del Crystal Palace, quel famoso colpo di Kung Fu, e rimase là. Mancini, Moratti non riuscì a prenderlo. Dichiara: sarebbe stata una copiata fantastica, degna della tradizione dell'Inter, una squadra che ha sempre privilegiato il genio calcistico, che non ha mai soffocato il talento, da Meazza a Wilks, da Skoglund a Corso, da Ronaldo a Recoba a Ibrahimovic. Qual è l'intruso? Altra cosa di Moratti, che insomma si capisce molto dell'Inter e della sua presidenza, quando dice che nel calcio non può essere un'azienda, non c'è tempo per i bilanci, per programmi a lungo termine, perché dice ogni settimana, addirittura ogni 3 giorni c'è una verifica, i risultati di una partita conta sempre molto, non esiste la programmazione a medio o lungo termine. E poi ci sono i tifosi che con i loro sogni, le loro speranze, le loro aspettative, ho sempre pensato che fossero loro i veri padroni dell'Inter, giusto o sbagliato? 800 24 00 24, ma parleremo ovviamente di questo, non solo di questo, di molte altre cose, perché oggi si leggono diverse riflessi di mercato ancora lontano, ma è il tempo delle letterine a Babbo Natale. C'è Okaka che non ha rifirmato il contratto con la Sampdoria e pare che Inter e Milan siano sulle tracce di questo giocatore. Si legge invece di cosa avrebbe scritto Mancini nella letterina di Natale indirizzata a Babbo Natale Toir. Poi c'è Cassano che potrebbe rivestirsi di blu cerchiato. Oggi è stato operato Castano, a proposito, in bocca al lupo forte al giocatore della Roma. Ma sul mercato la Roma di giocatori ha bisogno, anche il Napoli vorrebbe qualcosa, e addirittura negli articoli che oggi riferisco di quella sciocchezza totale che ha scritto Balotelli, su cui si è molto ricamato, anche troppo, secondo i bookmakers inglesi Balotelli potrebbe addirittura andare a Napoli. Vabbè. Poi cosa c'è? C'è la maglia del Barcellona, altro argomento che mi affascina, non so se affascina anche voi, perché la maglia del Barcellona è sempre stata una sorta di santuario, fino a pochissimi anni fa vergine da ogni scritta di sponsor, poi prestata all'Unicef, poi prestata dietro compenso estremamente l'auto alla solita compagnia aerea del Qatar. Ebbene, la maglia del Barcellona non avrà più lo sponsor dal 2015-2016, tornerà ad essere vergine, almeno così pare, salvo offerte al rialzo. Invece vedo la maglia dell'anno prossimo del Barcellona, che altro che santuario, il Barcellona a strisce orizzontali manco fosse una squadra di rugby. Ovviamente grandi polemiche da parte dei tifosi blaugrana in Spagna. Vedremo se queste polemiche indurranno lo sponsor con il baffo a fare retromarcia. L'ultima cosa prima del traffico non riguarda il calcio, ma è una notizia di cronaca, perché ieri vi abbiamo parlato dei mondiali in vasca corta di nuoto. Ebbene, c'è un primo risultato non propriamente positivo per l'Italia, perché la staffetta 4x200 femminile è stata eliminata dalla finale. Federica Pellegrini non ha partecipato alle batterie, che non hanno portato al passaggio del turno la squadra italiana, e si è limitata a twittare un sobrio "sono incazzata nera", perché non sono stata interpellata per fare queste batterie, e quindi sostanzialmente un errore tecnico o del tecnico ci tiene fuori da questa finale. Federica Pellegrini la tocca piano. Auguri di guarigione a Benatia, che sentiremo invece più tardi, non solo a Castan, ex compagno di squadra, di ex coppia delle meraviglie al centro della Roma. In questo momento stanno vivendo entrambi un momento di grande difficoltà, momento di grande difficoltà, e poi ne parleremo in chiave mercato, anche per la Juventus, visto che è notizia di oggi, Asamoah e Romulo verranno entrambi operati e staranno fuori 3 mesi, dunque serve qualcosina anche alla Juventus sul mercato. Questi un po' di temi, poi ne troviamo anche degli altri, se mai con il vostro aiuto. 800 24 0024 è il numero verde. A proposito, Buffon non vuole dare il pallone d'oro a Neuer, no, dice no, un portiere non può vincere il pallone d'oro, voto Ronaldo. Invidioso? Traffico. Proiettati nel futuro, te l'ha detto pure il capitano. Tutti convocati. Ad un ex compagno di squadra che sta vivendo un momento difficile, Castano. Sì, ma lui lo sa già, l'ho sentito al telefono, gli auguro il meglio e spero che avrà possibilità di tornare il più presto possibile, perché lui è veramente un campione, un grande giocatore. È importante sul campo, ma anche fuori del campo, perché è una persona sempre positiva, che dà sempre il massimo a ogni giorno, ogni allenamento. E una persona così in un gruppo di calcio è troppo importante, quindi faccio un augurio a lui, ma l'ho già fatto, l'ho anche sentito, e io prendo notizia sempre con i dottori della Roma, mi dicono un po' come sta, e anche un grande abbraccio per i figli, per la famiglia, e sono sicuro che lui tornerà più forte. Questo era Benatia, compagno di Castani in quella meravigliosa difesa della Roma, che è stata smontata dal mercato e da questo problema di Castan, che è stato operato. L'operazione che è iniziata questa mattina alle 8, aspettiamo aggiornamenti. Sappiamo di che cosa si tratta, sappiamo che il recupero non sarà rapido. In bocca al lupo, naturalmente, ci uniamo a Benatia. Allora, vorrei tornare al tema di cui sopra, cioè a questa intervista di Buffon di oggi a FIFA.com. Abbiamo l'audio, benissimo. Allora sentiamo che cosa ha detto Buffon e poi ne parliamo. Oggi credo che per poterlo vincere un portiere debbano accadere dei casi eccezionali, no? Perché magari ormai secondo me non si premia più magari anche il più bravo, si premia quello che ha vinto di più, e a seconda magari di come può aver giocato o può essere stato determinante in alcune situazioni, no? Per cui non so, un portiere potrà vincere il pallone d'oro quando vincerà il mondiale la sua squadra, file rigori, e allora a quel punto nessuno potrebbe esimersi, ecco, dal nutrire qualche sospetto, da storcere il naso, no? Però deve accadere un qualcosa di realmente eccezionale. Questo ha detto Buffon. Beh, vincere un mondiale è qualcosa di eccezionale, e lo sa benissimo anche lui, dato che l'ha fatto senza prendere il pallone d'oro. Franco Tancredi è stato un eccellente portiere, ma anche allenatore di Gigi Buffon alla Juventus. Ciao Franco. Grazie, buongiorno a tutti voi. Ciao. Sei d'accordo su quanto ha detto Gigi Buffon, o magari è un po' invidiosetto? No. Gigi quando parla non parla mai, tanto per parlare. Secondo me Gigi lo meritava nel 2006, perché ha fatto un mondiale veramente dove un portiere non ha mai inciso come ha inciso Gigi Buffon, e per tornare all'attualità è come ha inciso quest'anno il tedesco Neuer, che è stato veramente, veramente pazzesco. Quindi lo daresti a lui questo pallone d'oro? Sì, io lo darei a lui, o a, perché se lo merita, insomma. Ma questo non avverrà, purtroppo. Adesso è successo, mi pare, una volta sola con Lev Yashin 1963. Con Lev Yashin, sì, quando non vedevamo neanche. Sì. Quindi, secondo me, anche perché visto la storia del pallone d'oro, in questi ultimi anni è stato diciamo abbastanza veritiero, ma ci sono stati dei casi di giocatori che hanno preso il pallone d'oro, Bedi Summer, sì, o qualcun altro, insomma, che molto discussi e discutibili, certamente. Sì, ma se pensiamo che non l'ha preso Franco Baresi il pallone d'oro, non l'ha preso Paolo Maldini, insomma. Io poi dopo, sì, questi riconoscimenti sono, diciamo, riconoscimenti validi, però... Però ormai sanno molto. Io penso una cosa, penso che un portiere valga lo stesso, avere un grande portiere è come avere un grande attaccante. Alla fine, poi dopo, se un portiere ti porta 10-15 punti nell'arco di un anno e non sbaglia e non ti fa perdere le partite, non sbaglia mai, è per me... No, certo, sono d'accordo, ma questa è l'ulteriore dimostrazione del fatto che il pallone d'oro è un premio che va preso un po' così, no? E sì, va solo agli attaccanti, e ai portieri non ci va mai, non ci andrà nemmeno quest'anno. È arrivato Pardo, ciao Pierluigi. Ciao, sono d'accordissimo, devo dire che io, sapete, l'avrei dato Müller con i vecchi parametri. La grande differenza da quando è cambiato il pallone d'oro negli ultimi anni è che ormai si vota semplicemente un marchio, cioè si vota quello fra Cristiano Ronaldo e Messi che ha fatto la stagione migliore. Questa è la verità, ed è molto, ed è un po' noioso, nel senso, io perché glielo darei, è un portiere incredibile, però rischia di essere l'ennesimo Baresi o Maldini della storia, no? Nel senso che è pieno di giocatori che semplicemente hanno un ruolo un pochino meno visibile, sì, con tutto che poi il portiere, in realtà, sono d'accordo con Franco, è comunque nel vivo del momento chiave della partita, no? Che è il gol o la parata, quindi da questo punto di vista può essere più difficile magari per un centrocampista centrale, per un mediano, ma per quanto riguarda il portiere dovrebbe valere il discorso uguale e contrario dell'attaccante. Certo. Si trova esattamente con la responsabilità che se fa il miracolo non è gol, se sbaglia è gol, esattamente. Sì, però la differenza è che il portiere non fa vendere le magliette, va a vendere l'attaccante, e questo lo sappiamo perfettamente. Sì, sai Luigi, le volte che penso che purtroppo ci sono anche squadre o allenatori o società così che pensano che basta che c'è un portiere, e no, le grandi squadre hanno i portieri, quelli che fanno la differenza. Senti, Franco, ma... E che ti portano a casa i punti. Buffon vorrebbe è la ancora... classifica paratori, bisognerebbe fare come la classifica cannonieri, la classifica delle parate, solo che la vincerebbe inevitabilmente un portiere di una squadra di bassa classifica, perché certo, chiaramente... Perché subisce più tiri e quindi fa più parate, eccetera, eccetera. Ma Franco Tancredi, Buffon è ancora il più forte portiere italiano? Ma mi sembra completamente differente, come l'addio di Totti quando ci sarà per la Roma. Purtroppo noi quando Gigi deciderà di smettere, che non ci venga in mente di fare dei paragoni, perché sennò siamo rovinati, nel senso che Gigi è talmente avanti agli altri. Brave, belle promesse, ma Gigi è quello che ha fatto. Gigi è nella storia, sì, è nella storia del calcio, è nella storia del mondo del calcio, quindi sarà difficile, quindi bisognerebbe che ci attrezziamo e cominciamo a pensare al dopo Gigi, e senza però dire dobbiamo trovare uno come Gigi, nascono però guarda, la storia anche di questo campionato sta dimostrando come, essendo tutto ciclico, la scuola dei portieri italiani qualcosa sta producendo, perché stiamo vedendo sportiero dell'Atalanta, le ali del Cesena che potrebbe essere dopo Buffon, che è portiere della Juventus, Scuffet che è misteriosamente sparito per storie strane, Perin che è già stato grosso modo consacrato dalla partecipazione ad un mondiale, che sarà spettatore. Io infatti sono contento e felice che quest'anno ci sono degli allenatori che hanno puntato decisamente sul Made in Italy, perché noi abbiamo la migliore scuola di preparatori dei portieri, questo non è che ci voglia qualcuno a certificarlo, quindi non vedo perché devono arrivare degli stranieri giusto per arrivare, o giusto, cioè lasciamoli lì dove sono, curiamo i nostri vivai e portiamo i preparatori bravi nei settori giovanili, che è ancora più importante che quando sono in Serie A. Sì, sono d'accordo e sarò sempre d'accordo su questo punto. Stavamo dicendo, Pierluigi, che tutto sommato c'è stata una crisi di vocazione che però sembra terminata. Voglio chiedere ancora una cosa a Franco Tancredi prima di salutarlo, magari un po' provocatoria, ma De Santis è ancora un portiere forte, è ancora un portiere da Roma? De Santis è un portiere da Roma, De Santis è un portiere esperto, è chiaro che lui il meglio di se stesso l'ha dato quando era a Udine, quando i primi anni a Napoli, però è un portiere affidabilissimo, capita a tutti di fare degli errori, quindi però vedo che la Roma si sta già guardando in giro, quindi queste sono poi dopo valutazioni che farà Garzia insieme a Morgan De Santis, che è un ragazzo splendido, un ragazzo intelligentissimo e che ha tutta la mia stima, quindi io penso che... Ma la domanda è un'altra, chi è stato il miglior portiere della storia dell'Abruzzo? Della storia del calcio abruzzese, perché... vai Pierluigi, non lo so, lo lascio dire agli altri, però insomma qualcosina ho fatto, dai. Giulianova contro Guardiagrele, diciamo, giusto? Sì, però insomma già che due portieri sono nati in quella terra, mi hai dato una spiegazione, tu in nazionale potevi far di più, dai, adesso non parli in modo... Sì, Pierluigi. Sì, questo è l'unico, diciamo, assieme alla finale di Coppa dei Campioni, è un cruccio che mi sono portato dietro, anche perché per un anno e mezzo ero stato titolare, poi improvvisamente 10-15 giorni prima del mondiale sono state fatte delle altre scelte, è chiaro che ci sono rimasto male. Poi però, visto com'è andata quella spedizione, è andata bene. Alla fine. Non benissimo. Nell'82 hai beccato la parte finale, diciamo, del regno di Zoff. E vabbè, è comunque un ragionamento che ci poteva stare, anche se credo che in quegli anni lì, insomma, ti eri avvicinato molto, con caratteristiche forse diverse, no? Tu eri forse anche superiore come reattività fra i pali, poi magari in uscita... è stato, voglio dire, il tuo tallone d'Achille, ma insomma questo è anche se poi mi sono rivisto, non c'è molta differenza con quelle attuali. sono uscite. Grazie Franco. Grazie, ciao. Allora ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, dimmi. Al fisso, quindi si sentirà bene al fisso. Ok, comunicazione di servizio, chiamatelo anche voi al fisso. A dopo. Anche se non avesse vinto, diciamo, la Coppa Campioni, io penso che bisogna premiare il giocatore più forte del momento, no? Fermo restando che secondo me il giocatore magari più forte di tutti rimane Messi, perché quando è al 100% e nella situazione giusta, secondo me è un qualcosa di sublime da vedere. Convocati. A proposito di Neuer, vi segnalo questo messaggio al 349-238-6666. Il portiere tedesco gioca con i piedi meglio di 20 giocatori dell'Inter, scrive un ascoltatore anonimo. 14:30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Folle ai cancelli e spazi gremiti per un gioco antico con moderni miti. E sono le 14:35. No, 14:30. Che quando sento questa canzone viene in mente subito la faccia furbetta di Piantanida. Che c'è Piantanida che sta lì, che gode nel farmi. 14:30, comincia il gioco. 14:30, si parte tra poco. Si parte tra poco. Ricomincia il gioco. 800-24-00-24, numero verde. Poi parliamo anche di Del Piero, che non trova spazio nel Daily Dynamos, perché l'allenatore, l'olandese naturalizzato belga Van Veldhoven, non lo vede. Uno che è olandese, adesso voglio dire, si può fare, cioè che uno non lo vede. Ma è strano un olandese naturalizzato belga. Strano, sì. Cioè, come uno svizzero che diventa austriaco, un austriaco che diventa tedesco, cioè mi sembra adesso non volevo, per carità. Ma comunque, fatto sta che infatti scelta tecnica Del Piero diceva non gioco, chiedete all'allenatore, importante è controllare il conto corrente alla fine del mese, perché non ne prende pochissimi. No. Mario, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Pardo. No, volevo dire che secondo me il pallone d'oro smesso di esistere nel 2010 quando non lo dietro Snyder, che vince triplete, fu capocannoniere dei mondiali e anche in finale fece un assist a Robben pazzesco, che poi Robben sbagliò davanti al portiere. Quindi se non lo vince Snyder quell'anno, pallone d'oro non ha più motivo di esistere, ecco. Sono abbastanza d'accordo. No, ma poi non è senso che nell'anno dei mondiali, che è la manifestazione più importante che c'è, non lo vinca un protagonista del mondiale. Snyder non vinse quel mondiale, però anche quelli dall'altra parte non beccarono il pallone d'oro che finì a Messi. No, ma questo però è l'approccio antico, io posso condividerlo, però non è più così. Cioè, ormai il pallone d'oro è un sondaggio su chi è il giocatore più forte del mondo. E allora sai che divertimento, sai che ridere. Infatti è noiosissimo. Però no, prego l'ascoltatore, prego. Cosa, terminata l'operazione di Castagna. Quindi questo per la cronaca, è iniziata stamattina alle 8, terminata ora, quindi qualcosa di lungo, ma questo lo sapevamo già. Cosa ne pensi invece della maglietta a strisce orizzontali del Barcellona? Il santuario profanato. Sì, anche se in realtà ricorda vagamente una maglia bellissima, forse la mia maglia preferita in assoluto dopo quella dell'Arsenal negli anni 70, che è la maglia del Newcastle, la seconda maglia del Newcastle 95-96. Mi rendo conto che siamo proprio nella nicchia, se la ricorderanno in otto. Però la seconda maglia del Newcastle con lo sponsor della birra Newcastle Brown Ale, con la stella, con questi colori un po' claret and blue, né? Come dite voi italiani? Claret, tipo colori ciclamino. Sembri mica. Anche un po' Ericsson. Bellissimo. Devo dire quindi che a me la striscia orizzontale piace sulla maglietta, per gli altri, se me la metto io sembro Gabibbo. No, però voglio dire, la maglia del Barcellona, che era qualcosa di sacro, sverginata in onore della prima volta, in onore dell'UNICEF, poi scusa, in onore del Petrodollo l'altro giorno. Capito, ma sulla terza maglia uno fa le scelte che vuole. Io la penso vagamente così. La prima maglietta, cioè il Barcellona blaugrana a strisce orizzontali, fa bene il popolo del Barça a ribellarsi, va bene. No. Io ti dico che la maglia italiana secondo me è più come si dice, come dice? Niente, non riesco più a parlare, più clamorosa e diciamo meno accettabile è quest'anno, è quella dell'Inter. Assolutamente. Quella è una prima maglia che non c'entra nulla proprio col solito, poi sulle seconde e sulle terze ci si può sicuramente sbizzarrire, quindi su questo ti do ragione, anche se a me non è che proprio faccia orrore sta maglia del Barça. No, ma non sto parlando di un po' argentina. Ma no, ma neanche quella dell'Inter, cioè nel senso, neanche quella dell'Inter, la prima maglia di quest'anno, quella nera con le righine, il gessato cromaticamente non è male. Il problema è che non è la maglia dell'Inter, quindi. La peggiore del Barça comunque era quella tipo Lecce. Sì, sono d'accordo. No, quella con cui giocò a Milano. Sì, esatto. Sì, a Piantanera piaceva, l'unico in Europa a cui piaceva la schifezza di divisa, una roba terrificante disegnata con i pennarelli, con gli Uniposca. C'è chi scrive che per Buffon c'è un po' di gelosia nel dire che pallone d'oro Neuer no, meglio Cristiano Ronaldo. C'è chi scrive 1999 triple del Manchester United e pallone d'oro a Rivaldo, scandaloso, Renato da Vittorio Veneto. Paolo da Milano che dice invece? Sì, salve signor Genta. Niente, la mia due questioni. La prima è un po' una provocazione, perché secondo me il pallone d'oro, se Buffon dice che lo può vincere solo chi ha vinto qualcosa, allora quest'anno lo diamo a Khedira, perché è l'unico che ha vinto mondiale e Champions League. Questa è, diciamo così, secondo una logica. Invece la seconda questione era rivolta al signor Pardo, che commenta spesso le partite della mia squadra. Io sono un tifoso Granata. Sì. Volevo sapere, secondo lui, chi potrebbe essere un giocatore da comprare a gennaio per questa squadra, per farla migliorare un po'. Adesso ne parliamo diffusamente. Noto che sta usando il telefono di Pardo, quindi sì, sarà lì, lì vicino a lei. Quindi Pierluigi, Paolo, sì, che un attaccante. Ma il Torino ha una struttura molto, molto semplice. L'altro giorno ha dimostrato di essere una squadra che ha una intelaiatura da squadra di metà classifica. Il piccolo dettaglio è che segna pochissimo, e che probabilmente Quagliarella e Amaurì, che pure l'altro giorno non mi sono dispiaciuti insieme, non hanno proprio delle caratteristiche straordinariamente che si combinano molto bene. Quindi io ti direi un attaccante, ti direi assolutamente un attaccante, dato più che Barreto andrà via, poi il nome non lo so, dipende un po' dai budget. Ma adesso sai cosa facciamo? Adesso sì, ce lo facciamo dire. Parliamo di calciomercato. Bah, sì, dai! Parliamo di calciomercato. Un saluto a tutti i calciomercadesi, che adoro questo luogo da favola. Non è un luogo ideale per le vacanze, che non c'è l'estradizione. È importante, dai. Importante, ma non c'entra niente. Uno dei calciomercadesi è Luca Marchetti da Sky. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti. Come stai Luca Marchetti? Tutto bene? Tutto bene. Volevo dirvi che a proposito del successo della trasmissione, mi ha appena scritto Nicola Roggero, che sì, Marchetti conosce, il grande telecronista di Fox, il grande appassionato di sport, non solo di calcio ma anche di atletica leggera, grande conoscitore, dicendo che si ricorda la seconda maglia del Newcastle e giustamente si chiede chi siano gli altri sette. Parliamo della stagione 95-96, quindi se ci sono altre persone che vogliono, però non vale guardare su Google, la maglia è quella strisce orizzontali. No, vale guardare su Twitter, perché Franco Piantanida l'ha appena twittata. La grandezza era un colletto un po' alla coreana, sì, color panna. Io poi quegli anni assomigliavo molto a Ginolà. Sì, crediamo. Poi con gli anni sei passato a Ricucci. Da Ginolà a Ricucci, perché comunque ci si evolve, si provano esperienze. Allora, ascolta, adesso rispondiamo all'ascoltatore seriamente. Luca Marchetti, chi prende il Torino? Chi prende come nome non lo so ancora, sinceramente. Attaccante, però, dai. Attaccante, sono d'accordo con Pierre. Credo che il Torino abbia questo problema, che abbia, sia evidente. Gioca bene, ma non segna. Le ultime due partite credo lo siano a testimoniare. Senti Luca, ma il Milan in settimana si è messo in tasca, virtualmente, peraltro, perché spalmati negli anni, 100 milioni dalla sponsorizzazione, a proposito di queste cose, della maglietta, manco a dirlo. Li userà sul mercato oppure no? Ma intanto non sono 100, perché sono 87 per arrivare a 100, più bonus, 87 di base più bonus. Intanto il Milan ne prendeva già 12 all'anno, quindi diciamo che in più rispetto a prima sono 5-6 milioni all'anno per i prossimi 5 anni, che è pur sempre tanto, quindi diciamo che al netto sono 26-27 milioni nei prossimi 5 anni. Questo non significa che il Milan non li reinvestirà sul mercato, li reinvestirà, perché c'è bisogno comunque di un volano positivo. Questo è tutto il ragionamento che fanno tutte le squadre. Secondo me la prima cosa che andrà a prendere il Milan è un centrocampista. Sì, e ne ha un gran bisogno, per la verità, di quel centrocampo di qualità ne ha pochissimo. Adesso rientra Montolivo, cioè Bonaventura è stato un eccellente acquisto. Cioè, beh, peraltro il capolavoro Pierluigi, ovviamente Galliani ha fatto con Menez, venuto via per niente, adesso commercializziamolo e qualcosa ci tiriamo fuori, eh? Sì, diciamo che su due scommesse, una per ora è completamente vincente, l'altra è completamente perdente, però insomma quando fai scommesse a costo zero è chiaro che, soprattutto se comunque hai il budget per poter pagare un certo tipo di stipendi, se già fai il 50% già va bene. Dal punto di vista della classifica, dal punto di vista di quello che può succedere, è un anno divertente questo, perché chiarito il fatto che Juve e Roma si giocheranno lo scudetto, poi ci sono tante squadre che possono sognare questa gloria di questo terzo posto. Certo. E il Milan è fra queste, Milan è fra queste, se fa una buona campagna acquisti a gennaio, perché no? Ma secondo me anche l'Inter, che adesso è geograficamente nella metà destra della classifica, però insomma non mi sembra ancora così distante. No, assolutamente, ma è molto liquida, usando un'espressione che è molto cara. Soddisfazione Nicola Lucia, si ricorda che il Newcastle era più 12 quell'anno, il 95-96. Ma chiamiamolo Nicola, scusa. Sto mangiando, sto piossando, Pinerolo. State lì, ragazzi. Luca Marchetti e Luigi Pardo, traffico. Luca lui, tutta sola, rata, rata. Convocati. Ora Pierluigi, chiudi gli occhi, mi rifai, chiede Luca su Twitter, gli ultimi 30 secondi di Juve Toro? Ma non li posso fare, sono ridicolo. prendete la clip, mica. Prende questo pallone, prova ad andare verticalmente, palla verso Benassi, disturbato Benassi, l'intervento è regolare da parte di Borucci, possibilità per la Juve, ancora con Morata, il tocco nella zona di Vidal, lo scarico verso Pirlo, Pirlo prova, Pirlo! Pirlo con una traiettoria incredibile trova il gol del 2-1, un finale incredibile, un finale pazzesco. Minuto 93. Sembravi Auriemma. No, ma io mi stavo chiedendo, Auriemma avrebbe fatto Morata, palla verso Pirlo, però non poteva farla perché della Juve, quindi dovevo fare la rete. Se fosse stato contro il Napoli avrebbe detto Pirlo. Ci sarebbe stato il silenzio. Pirlo, ha segnato Pirlo. Sempre così va a finire. Oppure se avesse segnato Hamstick. Ma Ricchiaro! Vieni a cena da me, ti faccio i friarielli. No, volevo chiedere, ma dov'è Uboldo? Hai sentito il traffico? Ma il traffico, ragazzi, ma voi non siete concentrati sul momento clou della trasmissione, che è il traffico? C'è una coda a Uboldo, adesso cerchiamo su Google dov'è Uboldo. Vicino a Saronno, nel Varesotto. Gente, sta così, tutto, ragazzi. Incredibile. 15 anni che vivo in Lombardia e non sono mai stato a Uboldo. Basta che vivi in Lombardia, Pier? Più o meno sì, è Milano. Più o meno. Ma è possibile, chiaramente mi reggo nella capitale, questo voglio dire. Insomma. Senti, Luca Marchetti, un consiglio per Pazzini, fin troppo facile, Genoa. Per gli ex milanisti mi sembra una destinazione obbligata per rinascere da Boriello, Girardino, Matri. Adesso. Sì, però al Genoa Toro per Pazzini. Per Torino. Eccolo là, Pazzini o Toro. Io ti dico anche Samp. Anche Samp. Si ricompone l'accoppiata Pazzini-Cassano ad anni ed anni di distanza. Non sarebbe male, a livello, e credo che il presidente Ferrero a questo magari ci può guardare, romantico, potrebbe anche essere molto interessante. Non che Okaka e Terre stiano facendo male, però insomma, Pazzini secondo me rimane uno dei migliori attaccanti italiani, io sinceramente non so perché non sta giocando nel Milan. Al Genoa rischia di non giocare neanche al Genoa, paradossalmente, perché Matri segna sempre fuori casa, Piniglia segna sempre in casa, il gioco del coppio è già definito. Beh, però Pazzini può entrare in ballottaggio. Quindi, allora, Okaka non parte, non c'ha cifra. Okaka è mio e me lo abbraccio forte forte. Okakone. No, non è dispregiare, è carino. Okay. Perché Cassano, quando lo incontro gli darò la mano. Perfetto. Presidente Cassano viene alla Samp, glielo chiedo subito. Basta con sto Cassano. È sempre le stesse cose, dai. Quindi? Cassano... Andiamo piano piano. Mai dire mai. Questo è quello vero, eh? Questo è quello. Siete antichi. Questo. Antichi è una cosa che mi fa impazzire. Siete proiettati al passato. No, comunque non sottovaluterei il Torino, eh? No, per Pazzini. Ma anche per Cassano. Anche per Cassano? Ma sì, dai, Cassano Quagliarella. Wow. Wow, no, questo, non mi ha detto niente, non lo sento da un po' di giorni, anzi. Questa pista non è male, Luca. Ma no, anche perché se dice qualcosa più su Cassano, ragazzi. No, twittiamo subito. Non lo sento da giorni, è proprio così, una cosa mi è venuta in mente, forse non dovevo dirla, ma sai, il tipo di clima è talmente amichevole che qua stiamo alla radio. Se ci fosse il due punti, non so nulla, non so veramente nulla. L'ultima Cassano, due punti. Se Cassano due punti non so nulla o è Pardo due punti non so nulla? No, io non so nulla. Pardo due punti non so nulla. Adesso alle tre lo chiamo e vediamo se... Va bene, va bene, va bene, durante il GR lo chiami. Intanto, Luca, forse non sarebbe una brutta idea quella di... Per Ferrero, quella di monetizzare Okaka, che in questo momento non ha firmato il contratto, e dice Okaka, me lo tengo stretto, me l'abbraccio forte forte, però... Guarda, Okaka andrà via sicuramente dalla Sampdoria. Io credo che faccia fatica la Sampdoria a darlo via adesso, perché potrebbe esserci meno mercato, paradossalmente. Lui comunque ha ancora un anno di contratto. Andrà via perché non rinnova. Se c'è qualcuno che lo prende e che paga quello che vuole la Samp in questa finestra di mercato, che possa essere l'Inter, che possa essere il Milan, che possa essere una squadra magari all'estero, io credo che in questo momento nessuna squadra può dire di no a dei soldi, soprattutto se un giocatore già ha deciso di non rinnovare. Certo, a proposito di Inter, cosa c'è scritto sulla letterina di Mancini a Babbo Natale? Secondo me è lunga. È lunga? Secondo me è lunga, però secondo me... Comincia da Cerci però, no? Comincia da Cerci, secondo me c'è anche dentro Kolarov, c'è una spruzzata di Lavezzi, la prima cosa secondo me però, ma la prima cosa che vuole, che vorrebbe Mancini è un attaccante esterno. L'Inter già manca di un attaccante, per il gioco di Mancini serve un attaccante esterno, quindi io credo che l'Inter si concentrerà soprattutto lì. Poi bisognerà capire, Icardi non so, ancora non è un problema, lo diventerà? Cioè, per Mancini gioca Icardi o no? Secondo me gioca Osvaldo. E quindi già quello potrebbe essere un'altra chiave di lettura, perché Icardi è un giocatore che ha mercato, ha molto mercato. Potrebbe essere un volano per il mercato dell'Inter, cioè cederlo per poi fare qualcosa. Ripeto, il mercato di gennaio è difficile assistere a delle rivoluzioni. Però l'Inter la sua rivoluzione già l'ha iniziata, prendendo un allenatore che fa un sistema di gioco diverso per una squadra che era stata costruita per un 3-5-2, quindi qualcosa l'Inter dovrà cambiare per forza. Sì. E la prima cosa, secondo me, è un attaccante esterno. Che comunque il nome più gentonante è quello di Cerci, rimane quello di Cerci. Sì, anche se l'Atletico Madrid, da quello che abbiamo capito, almeno adesso non ha assolutamente intenzione di darlo in prestito. Quindi è un'operazione che se l'Inter deve fare adesso deve spendere dei soldi. Sì. E credo che invece la prima istanza di tutte le squadre italiane più o meno sia quella di prestiti. Non prestiti magari con obbligo. Esatto. Grazie Luca, buon lavoro. A voi. Ciao Luca Marchetti. Siamo al momento del Bet Corner GR, come sai, Pierluigi Paolo, poi ci sentiamo ancora, no? Sì, sì, io oggi sto con te il tempo che vuoi. Fantastico, fantastico. Ma il traffico, quando c'è il traffico? Il traffico c'è appena stato, fa il bravo. Il prossimo appuntamento sarà alle 15:45 con il traffico. Nel frattempo magari la situazione a Uboldo si sarà risolta. Lo speriamo tutti, altrimenti non potremo più parlare di Uboldo. Altrimenti volevi solo che se siete in coda tra Piero e Cormano stavolta Raikkonen non c'entra perché è in Giappone. Comunque c'è anche chi scrive: vi ascolto nel mio garage in auto, agente di commercio Vitagrama, sono interista, mi ha scritto una mail ora, vedi sopra, consigliate Piero Ausilio tre acquisti per gennaio, vi prego. Enrico da Bari, Enrico, ci consigli lei tre acquisti e poi giriamo la pregunta a Piero Ausilio, naturalmente. Bueno. Allora, Bad Corner GR, poi di nuovo qui. Quote e pronostici. Dopo le gare di ieri prosegue la Coppa Italia con altre tre gare in programma quest'oggi. Alle 15 l'Atalanta attende l'Avellino, vediamo le quote SNAI. Per questa partita l'1, la vittoria dei bergamaschi, è quotata 1,80, l'X è 3,50, il 2 invece con la vittoria degli Arpini, quotata 4,50. Interessante la gara delle 18 tra Empoli e Genoa, l'1, la vittoria dell'Empoli, è quotata 2,45, l'X è a 3,25, il 2 invece con la vittoria dei rossoblù è quotata 2,85. Gol per questa partita a 1,73, no gol, quotato 2. Alle 20:45 l'Udinese di Stramaccioni attende la Cesena, l'1, la vittoria dei friulani, è quotata 1,60, l'X è a 3,75, il 2 invece è quotato 5,75. Big match in Premier questa sera con Arsenal-Southampton all'Emirates, sfida di altissima classifica, l'1, la vittoria dell'Arsenal, è quotata 1,80, l'X è a 3,65, il 2 invece con la vittoria del Southampton è quotata 4,25. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. A risentirci domani. Tutti convocati. È il primo scoop di cui nessuno ha mai parlato, di cui io stesso non ho mai saputo nulla, clamorosamente smentito via ANSA. Cioè è una excusatio non petita grande quanto un grattacielo. Quindi, cioè, io credo che sia stata un'operazione maldestra sia da parte di Barbara Berlusconi che da parte di Filippo Inzaghi, perché onestamente nessuno aveva chiesto loro di... anche perché era stato pubblicato su un giornale che francamente non è che brillasse per così, per con tutto il rispetto, ma non era Chi, non era Vanity, non era Oggi, cioè era un giornalino, ecco. Addirittura un'ansa per fare una smentita così secca, mi viene da pensare che forse qualche cosa di vero ci sia. Ah, però Alfonso Signorini, sulla presunta liaison Berlusconi Inzaghi, Berlusconi Barbara, ben inteso. Ti avverto, no, io lo fa come gli pare, però è così. In sto paese in cui Schettino va all'Isola dei Famosi, io non so più che cosa dire né cosa pensare, quindi va al tuo posto, Pardo. Schettino, al tuo posto all'Isola dei Famosi. Questo paese, io andrei volentieri in barca con queste cose, tu, ma magari su una barca un po' più piccola. Sto paese merita tutto quello che si ritrova, guarda. Certe volte mi viene da pensare così. Comunque, ti avvertono che Uboldo è il paese natio del diavolo Chiappucci, tanto per cominciare. Ma certo, ma io lo conosco benissimo Uboldo, lo conosco talmente bene, vi posso dire che c'è il sito internet www.comune.uboldo.va.it. Punto Chiappucci, che è nato lì, che è, qui è stata intitolata, non lo so, una piazza, una scuola, no? Su un'area di 10 km quadrati, nella provincia di Varese. Vabbè, sappiamo tutto, questa sera ci andiamo a fare un giro. Intanto 10.320 abitanti, secondo Wikipedia, secondo tuttitalia.it 10.574, sì, bisogna contare gli ultimi nati, eccetera eccetera. Ti faccio sentire Giuseppe Rossi, che ha insomma tanto tempo anche per scrivere, purtroppo poveretto, ha pubblicato un libro con l'amica Alessandra Bocci, ne parla così. Io sono convinto, ecco, che tornano più forti. Perché? Perché questa è la mentalità che cerco di usare in ogni esercizio che faccio. Per arrivare a certi livelli è la testa che comanda, specialmente quando incontri questi momenti non tanto piacevoli, è la testa, è quella la prima cosa che devi allenare. E dal primo giorno che sono uscito dalla clinica mi sono detto che tornerò più forte e lavorerò tanto per arrivare a certi livelli ancora. La cosa importante è quello di tornare. Quando? Non è quella la cosa importante, è di tornare più forte di prima e quindi di cominciare di nuovo. Di fare la mia carriera. Beh, non inedita come dichiarazione, tornerò più forte di prima. Qua da qualche parte mi pare l'abbiamo già sentita. C'è anche un altro signore che voglio farti sentire, un ragazzetto che voglio farti sentire, è Matteo Kovacic su Mancini, mi pare. Kovacic. Contro Roma sapevamo che era una partita molto difficile. La Roma secondo me è la squadra più forte in campionato, giocano veramente un bel calcio e abbiamo visto che è una partita difficile, abbiamo fatto due gol ma alla fine non bastava. Allora Pier, facciamo il titolo, Toro idea Cassano, oppure Cassano Toro contatto? Assolutamente no, è una cosa che mi è venuta in mente. Ma perché l'ho detta? Non c'è niente di proprio veramente. Dai un'occhiata a calciomercato.com. Dai un'occhiata a calciomercato.com. Pardo, com'è, cosa scrivono? Pardo due punti, Cassano ipotesi Toro. Ma che capisci che non si può più parlare di niente? Cassano Toro contatto, questo non è male, Non è male. Sì. Ve lo suggerisco. Toro arrivo. Siamo ai dettagli. Ma no, è proprio una cosa che mi è venuta, che calciomercato.com, il computer è talmente lento che ecco. Dai un'occhiata, con calma. Intanto Giuseppe a provincia di Milano. Buongiorno Giuseppe, mentre tu dai un'occhiata. Giuseppe, pronto? Buongiorno, dica. Pronto? Dica, eccoci. Sì, volevo parlare del Milan, sono milanista. Sì. secondo voi Mourinho è uno che si intende di calcio? Poco, abbastanza, molto, moltissimo. È una domanda trabocchetto? Moltissimo. Sì, penso di sì. Moltissimo. Moltissimo. Moltissimo. E allora Torres come mai l'ha ceduto? Vabbè, mi sembra un mistero di Pulcinella, no? Voglio dire, c'è da domandarsi anche perché, cioè, se lo voleva tenere lo teneva, l'anno scorso se voleva farlo giocare lo faceva giocare, invece ha seguito, un'altra strada. E poi la metà di questi titolari del Milan di adesso, 10 anni fa sarebbero entrati a Milanello. Un vecchio discorso, no, non giocavano l'amichevole del giovedì con la Pro Patria, secondo me. Ha ragione. Grazie mille. Sì, domanda pleonastiche, domanda implicita risposta, questo è. Volevo una conferma. No, non c'è dubbio, ce l'ha. Grazie mille, arrivederci. Guarda, Fernando, che mi dà gioia. Fernando, io devo dire con tutto rispetto che tengo per tanti dei miei ex giocatori, che come professionista, come persona, Fernando non sta dietro di nessuno. Un ragazzo fantastico, un professionista fantastico, mi mancherà a me, mancherà alle squadre, però penso anche lui che in questo momento aveva bisogno di un cambio. Abbiamo parlato, Milan è Milan, Italia sarà sempre Italia, la passione che voi avete per calcio penso che sarà una motivazione importante per Fernando. Per me parlare di Fernando è parlare con molto rispetto di un ragazzo che merita tutto buono. Mi sembra parole di Mourinho quando si comincia a parlare bravo ragazzo, eccellente professionista, su una sorta di pietra tombale sulla carriera di un giocatore. Come me lo dici, com'è quella ragazza è simpatica, è un tipo. Un po' la stessa cosa. Ma stavo notando che dall'Inghilterra quest'anno sono arrivati una serie di giocatori. È presto per dirlo, però insomma se dobbiamo fare un bilancio dopo 3 mesi, Vidic direi non bene. Facciamo 4 pacchi, Vidic, Cole sta faticando tantissimo, Torres sta faticando. Sì, Evra secondo me un po' meno, ha avuto degli infortuni che l'hanno un po' condizionato, non è che sia stato disastroso secondo me, dei quattro diciamo è quello fin qui che ha avuto il rendimento migliore, però insomma anche lui non ha brillato, quindi forse ci può essere un legame. A parte il fatto che poi se guardiamo l'andamento degli inglesi quest'anno nelle coppe non è che sia proprio eccezionale. Non è brillantissimo. L'anno scorso Siena aveva aperto la strada dei pacchi, il Milan se ne è presi 2, quindi il record va ai rossoneri. Paolo Bergamo, buongiorno. Sì, ciao ragazzi. Ciao. Volevo dire una cosa riguardo i scontri di Atalanta-Roma, perché ero allo stadio sabato scorso. Ora si parlava di quello che è successo in Spagna. Oh, mio Dio, da noi non è successo una cosa così grave, però il giovedì il quotidiano locale diceva: attenzione, sabato alle 6 c'è la partita, non andate in zona stadio. I Verdi, attenzione, il sabato non andate assolutamente. Poi è successo quello che è successo. Ma non ci voleva la maga Circe per dire queste cose, sono anni che è così. No? Esatto, però quello che dico, hanno vietato trasferte a destra, a sinistra, a Bergamo, una dovevate vietarne, una, e non viene fuori il nome di chi sia questo presunto esperto di calcio. Poi le squalifiche, adesso gli ultra di Atalanta è dal 2010 che non vanno in trasferta perché sono tesserati, hanno vietato la trasferta a quelli della tribuna, della Kreberg. Cioè, sì. Gli anziani praticamente devono vedere ancora l'Atalanta, sì. Anche lì, ma dico, ma c'era qualcuno che segue il calcio o che sa cosa sta facendo, sì. Si squalifica, dai, sì. Cosa vuol dire? Non ha né capo né coda, e quei 6 che hanno arrestato, va bene, hanno fatto qualcosa, saranno puliti come devono essere puliti, però mi sembra quasi che la cosa venga gestita da qualcuno che non ha le minime conoscenze di quello che succede. Quindi? Quindi voglio dire, io sono per la libertà di trasferta, nel senso, mi dà fastidio vietare a qualcuno, nel mio caso sono incensurato, non mi hai fatto niente, fatto come dice tu non puoi andare a Empoli, mi dà un certo fastidio. Sì. Hai ragione. Sì, sì, sì, ma però, io sono d'accordo su questo. Hai ragione, guarda, attorno al discorso dell'ordine pubblico, attorno a questo ricatto che noi subiamo da pochissime persone, no? Ci sono delle cose gravissime che succedono, e quindi quelli che si trovano la macchina sfasciata, quelli che perdono un'unghia, quelli che si trovano realmente in una situazione complessa, no? Anche semplicemente un bambino che si mette paura e gli rimarrà per 2 anni, per 5 anni, per 10 anni un trauma. Quindi questo già è un danno di un certo tipo. Poi c'è un danno piccolo, un danno meno grave, che però tutti hanno, perché il tifoso che non può più, il tifoso per bene, incensurato, che non ha mai fatto niente, che è innocente fino a prova contraria, che non può andare in trasferta, che se va in trasferta e c'ha un problema non può uscire perché è chiuso dentro un settore, che deve aspettare la mezzanotte, che viene sottoposto a delle limitazioni della sua libertà evidenti, come la libertà di movimento per esempio, no, tutte queste cose qui sono tutte delle violazioni o comunque delle limitazioni a quella che dovrebbe essere la stessa tessera del tifoso, è una pesante violazione dal punto di vista liberale è una roba orrenda la tessera del tifoso, perché mi devi schedare perché devi schedare mio bimbo di 6 anni se devo portare a vedere la partita, questa è una follia totale. Detto questo, poi alla fine, se tutte queste cose qui sono indispensabili, necessarie o comunque contribuiscono a limitare, a minimizzare il rischio che ci scappi il morto, perché poi di questo stiamo parlando, alla fine ben vengano queste cose qui. Però quando c'è stato l'11 settembre, voglio dire, una tragedia immane, improvvisamente negli aeroporti di tutto il mondo, ci sono state tutta una serie di limitazioni della libertà delle persone, di complicazioni, piccolissime cose, piccolissimi fastidi che derivavano da un problema enorme che abbiamo fatto tutti, ci siamo tolti le cinture, le scarpe, abbiamo tolto i computer, abbiamo messo il liquido, la bustina, i 100 ml, tutte cose che uno fa in nome di una idea di superiore, naturalmente, superiore, di un interesse superiore. Però il disagio c'è. Detto questo, Pier, io sono a favore di tutte queste libertà, della libera circolazione, eccetera, eccetera, però sono anche a favore del tifo disorganizzato e delle trasferte disorganizzate, nel senso che sono contro i treni speciali, i convogli speciali, scortati dalla polizia e tutte queste cose. Cioè, in un mondo ideale vuoi andare a vedere la tua squadra in trasferta, vai lì, compri il biglietto allo stadio ed entri. Questo non c'è bisogno di andare in massa, in gruppo. Hai visto che è successo in Spagna? Ho visto, certo. Dopo la roba incredibile di domenica mattina, ci sono state 24 ore di follia, di delirio, con responsabilità, ne abbiamo parlato l'altro giorno con Ricci. Adesso poi bisognerà vigilare e controllare, ma insomma sembra che l'Atletico abbia sciolto il fronte, e la stessa cosa stia succedendo alla Corugna, e in generale il punto fondamentale poi è quello: dopo una tragedia del genere si può reagire o si può non reagire, si può reagire o si può rimanere sotto ricatto. Sì. E qui, se un paese è forte, se una società è forte, se un presidente è forte, se ha uno Stato che lo tutela, ha la possibilità di recidere un certo tipo di filone. E parla uno che è stato sempre, e lo ribadisco, non dalla parte del tifo organizzato, ma a me non piace quando viene detto che tutti gli ultra sono delinquenti. Io non lo penso, io penso che all'interno del mondo ultra ci siano persone assolutamente per bene e che ci siano anche dei valori importanti, però vale il principio della responsabilità. Se si sbaglia poi si paga, la responsabilità è individuale, ma ovviamente inevitabilmente non può non succedere niente al fronte atletico dopo la cosa dell'ottobre. Certo. Cioè, comunque erano cose che si sapevano già da prima, cioè che questi fossero degli ultra di estrema destra, eccetera eccetera, franchiste, tutto quanto si sapeva già prima, così come si sapeva di quale matrice era il tifo organizzato di La Corugna. Dunque è stata una grave mancanza la gestione di questa trasferta, cose che succedono da noi, ma non solo da noi, lo sappiamo, ne abbiamo le prove e non sono le prime. Claudio, provincia di Milano, buongiorno. Dica. Allora, intanto volevo dire al signor Pardo che io sono nato a Milano, vivo a Milano, genitori milanesi, lombardo 100%, ma non sapevo che esistesse un boldo fino a 10 minuti fa. Si impara sempre qualcosa. Per carità, grazie per la solidarietà. Si impara sempre qualcosa. Mi dispiace per gli abitanti di Uboldo, sono spiacenti per loro. Ma a proposito, abbiamo notizie su sta coda? Non lo so, le avremo tra poco, fa il bravo. Adesso cerco coda o boldo. Prego, intanto andiamo. Poi facci sapere. Sì. Dica. È diventato il refrain del giorno questo di Ubosto. Vabbè, volevo solo fare un paio di domande. Perché Matri al signor Pardo, scusate, sì, perché Matri dovrebbe mollare il Genoa per venire dove, dove segna, dove gioca sempre, per venire al Milan, per ritornare al Milan, dove comunque avrà difficoltà maggiori? Tra parentesi, circa un'ora fa un vostro collega su una televisione regionale, no, non è vero che è regionale, è nazionale, ha dato per certo questo scambio Matri-Passini. E poi la seconda domanda, dopo che chiudo e sento tutta la radio, mi dica signor Pardo che non è vero che De Jong a gennaio, non a gennaio, a giugno se ne va. E se ne va, e se invece mi dice che è vero, mi dica che è per sua scelta e non perché lo mandiamo via noi. Fan di De Jong. Io non so veramente che dirle su De Jong. Io penso che De Jong sia un giocatore utile. Non più che utile, però, secondo me. Beh, sì, è un giocatore, utile. Utile, non certamente uno che ti cambia la squadra. Spesso è stato, comunque, gli è capitato di essere fra i migliori in questi anni di Milan. È stato molto condizionato il primo anno dall'infortunio a Torino, che gli ha certamente un po' scombinato i piani. Poi, in altre circostanze, è stato positivo. E però, insomma, se De Jong è il migliore in campo, fra i migliori in campo, spesso è un brutto segno, perché vuol dire che i giocatori che dovrebbero fare la qualità, dovrebbero darti più qualità, hanno steccato, e sì, questo qualche volta è successo. Sul discorso di Matri, io penso che perché dovrebbe andarci? È un'ottima domanda. Matri, dal punto di vista del Milan, si capisce, cioè Pazzini in questo momento è tecnicamente al di fuori del progetto, non è, certo, che lo dico io, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti. Quindi lo dai via, un altro lo devi prendere. E però Pazzini, soprattutto in un'epoca nella quale i soldi sono pochi, è una delle poche risorse realmente monetizzabili da parte del Milan, perché è un giocatore che invece può far gola almeno a 10 squadre in Serie A, insomma, una su due secondo me gioca titolare Pazzini, o comunque può essere molto utile. E quindi questa idea ci sta. Su Matri è un grande mistero, che poi spesso gli attaccanti vivono delle fasi molto alterne. Matri ce l'ha sempre avute, ha avuto un fantastico 2011, un pessimo 2012, poi ha steccato al Milan, a Firenze qualche sprazzo, adesso sta tornando, insomma, sì, io forse fossi Matri resterei là, no, ma anche perché è una squadra che poi magari c'è un discorso di ingaggi, cioè poi alla fine ci sono anche degli aspetti della vita che magari sono un po' meno, magari il Milan ti dà un milione in più, e a quel punto tu ti fai delle domande, e francamente è difficile per me stigmatizzare o giudicare, chi siamo noi per giudicare, lo diceva però Francesco, quindi figuriamoci noi, alla fine questi sono anche professionisti, i soldi poi in carriere abbastanza brevi rimangono, quindi non lo so se è questo il punto. Dal punto di vista tecnico, io fossi lui rimarrei al Genoa, su questo non ci sono dubbi. Ma tra l'altro in una squadra che sta giocando un calcio meraviglioso, che è alle porte dell'Europa, forse anche dell'Europa dei grandi, anche se insomma, qualche dubbio sul fatto che il Genoa possa correre per il terzo posto fino alla fine, però una squadra che lo valorizza, che lo mette al centro del progetto, eccetera eccetera, è difficile andare in una squadra dove sai già che fai panchina, perché hai davanti Menez, e quando non c'è Menez c'è Fernando Torres, e tu arrivi e tu ti siedi al posto di Pazzini, perché non credo che questa dinamica è molto frequente, Ci sono giocatori che sono giocatori di un livello medio alto, che possono essere grandi protagonisti, che hanno bisogno di sentire l'ambiente tutto dalla propria parte, che magari se c'è più concorrenza faticano di più. In realtà Matri l'ambiente e la titolarità alla Fiorentina ce l'aveva, perché è arrivato proprio a gennaio dopo gli incidenti che c'erano stati con Giuseppe Rossi e con Gomez, quindi quella possibilità pure ce l'aveva, non l'ha sfruttata nel modo. Secondo me sono fasi, sono sbalzi di rendimento, insomma, che ci stanno. Poi in un attaccante sicuramente li noti ancora di più. Il primo risultato su Google di Coda Uboldo è preventivi trasloco pianoforte a coda Uboldo, ecco questo. Per cui se hai un pianoforte a coda, facciamo uno squillo lì e vedrai che io quella cosa non l'ho trovata, e lo dico a Piantarita, questo mi dà gioia, perché vuol dire evidentemente calciomercato.com, non la vedo, perlomeno non la vedo, ma va bene così, calciomercato.it. Hai sbagliato indirizzo. Ennio Vicenza, poi salutiamo Pardo. Dica, Ennio. Buongiorno, chiamo per il discorso del pallone d'oro, che effettivamente negli ultimi anni è diventato quanto mai noioso, visto che è una cosa sempre tra Messi e Cristiano Ronaldo. La cosa più semplice potrebbe essere fare una cosa tipo premio Oscar, cioè fare varie categorie, i guantoni d'oro, non so, per la difesa i pacchetti stampati d'oro, boh, qualcosa del genere, poi si tiene il pallone d'oro come migliore in assoluto. Poi magari anche quello che si dice da anni, non so, mettere il pallone d'oro alla canina. Sono premi che comunque esistono, cioè poi se non c'è se non è il pallone d'oro è un altro riconoscimento, però sono kermesse che vengono peraltro moltiplicate. È chiaro che il pallone d'oro rimane il premio riconoscimento più famoso, più gettonato, anche più importante per gli sponsor, però esiste una formazione, l'11 ideale della FIFA, il premio FIFA World Super Extra Player, ci sono, no Pardo? Sì, no. Ci sono questi riconoscimenti, ma insomma io... A me appassionava veramente poco, da quando il pallone d'oro era una cosa un po' più seria, nel senso che comunque almeno attraverso quella sorta di rispondenza fra le vittorie dell'anno solare e il riconoscimento c'era almeno un principio, diciamo, razionale, no? Giusto o sbagliato che fosse. Poi si è arrivati al paradosso di Summer, che sicuramente insomma è stata una combinazione astrale clamorosamente favorevole a fargli vincere il pallone d'oro, perché sennò non avrebbe mai vinto per il valore tecnico di un buon giocatore, nulla più. Però almeno c'era una rispondenza. Quest'anno si riduce il tutto a un ballottaggio su chi è il più forte. Beh, quest'anno, negli ultimi anni, esatto. Ho letto, posso leggervi? Sì. Perché su calciomercato.it, questo fa molto ridere, li salutiamo, non so chi ci sia a calciomercato.it, ma questo dà l'idea della frenesia del mondo moderno, dove qualsiasi frase può diventare immediatamente... Allora, il titolo è Parma, nuova pretendente per Cassano, spunta il toro. Attenzione. Poi per Forte Antonio sarebbe anche un'altra pretendente. Come riferisce Piero Gepardo nel corso di ultimo gradi? No, non l'ho riferito. Come no? Ha riferito? Ma no, io ho detto che potrebbe essere un giocatore utile per il Torino. Qui si dice anche il Torino starebbe pensando al calciatore. Hai capito? Fa ridere. Da 1 a 10, quanto fa ridere, gente? 9. Ti salutiamo agli amici di calciomercato.it. Isola dei famosi, però non vai, no? No, però voglio dire, questa frenesia del dover dare, questo è un tema quasi culturale, adesso questo qui è una chi se ne frega, insomma, però è un tema proprio che riguarda l'informazione, la comunicazione, la velocità della comunicazione. Ogni istante ci sono queste testate H24 per le quali c'è ovviamente il massimo rispetto, in fondo siamo tutti ormai testate H24 con i nostri social network, che danno notizie senza un minimo di verifica. In questo caso è evidente che, lo ribadisco, è una cosa che mi è venuta in mente un istante, cioè Torino ha bisogno di leader, ha bisogno di un giocatore dal punto di vista tecnico che possa far infiammare i tifosi e che possa servire meglio Quagliarella e Amaurì. Il Parma ha dei problemi, ho fatto 2+2, no? Quindi toro virgola idea Cassano. Capito, capisci com'è. 14 e 30, si parte tra poco, inizia la sfida, ma è solo un gioco. Questo è per te, per salutarti. Pardo, sentiamo... Ciao. È ufficiale comunque, è ufficiale. Siamo ai dettagli, siamo alle firme. Cassano Toro contatto. Sì, siamo alle firme. È ufficiale. Domani c'è la conferenza stampa di presentazione alle ore 15:30. Noi la seguiremo in diretta. Ma hai sbagliato l'orario. No. 14:30. Si parte tra poco. 14:30 si parte tra poco. Domani alle 14:30 si parte tra poco. Conferenza stampa di presentazione di Cassano al Torino. Nostro inviato Pierluigi Pardo, avremo una lunga ed esclusiva intervista con il nuovo giocatore granata. Sì. E basta, niente, va bene. Ho sognato il Torino perché la squadra che mi è sempre piaciuta molto. Ciao Pier, ciao. Tutti convocati. Agli ascoltatori, torniamo dopo 800 24 00 24, facendo un giro un po' largo, cioè passando da New York City, dove c'è Simone Sandri. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Vorrei partire da una frase che è questa: hands up, don't shoot. Cosa è successo nella NFL a St. Louis? Sì, quattro giocatori sono entrati in campo con questo gesto simbolico e anche molto controverso, che rappresenta quello che è successo a Ferguson, anche se dico controverso perché da quello che è uscito dal testimonianza sembra che questo gesto di Michael Brown non sia in effetti successo, sembra che in effetti non avesse le mani alzate. Per cui la polizia di St. Louis ha chiesto una scusa pubblica da parte della società, che e questa è qui rappresenta un po' la discrepanza tra quello che dice la società e quello che sostiene la polizia, sarebbe arrivata, ma il proprietario invece dice che non è vero, che si è scusato, sì, tanto detto che supporta comunque la polizia. È abbastanza complessa la cosa. C'è da dire che secondo me, almeno per quanto per come vedo le cose io, quando i giocatori decidono di mettersi in gioco per prendere delle decisioni se vogliamo politico, comunque scomode, è comunque un gesto secondo me di maturità da parte dei giocatori, certo. Bisogna vedere se poi si è d'accordo o meno su quello che vogliono fare, però secondo me è comunque una cosa che va rispettato. È stato un gesto polemico, lo ricordiamo rapidissimamente la vicenda, un gesto polemico per sottolineare la decisione di non incriminare questo agente bianco Darren Wilson, che ad agosto uccise un ragazzo di 18 anni afroamericano, Michael Brown, in una cittadina alle porte, Ferguson, alle porte di St. Louis, e pare che questo è da chiarire, no? Che questo ragazzo avesse alzato le mani e quindi hands up. No, beh, sicuramente bisogna anche rispettare il cosiddetto legal process, cioè il processo dice che è stato, la giustizia ha fatto il suo corso e il poliziotto non è stato incriminato, per cui bisogna anche accettare il processo, come si dice, sentenza, anche in questo caso bisogna rispettarle piuttosto che commentarle. Nello stesso modo è giusto che la gente abbia i propri possa mostrare i propri sentimenti, e secondo me ha fatto molto bene la NFL a non squalificare o multare i giocatori, certo, come avevano chiesto, certo, per esempio alcune persone. Certo, ha fatto benissimo. Ha fatto rumore questa cosa negli Stati Uniti? Sta facendo rumore? O è già passata? Sì, ha fatto molto rumore, ci sono state proteste dappertutto e ha diviso molto, perché ci sono varie tesi, che quello dello sfondo razziale, quello della violenza della polizia, ci sono anche tanti che difendono anche l'operato della polizia, e ci sono tanti che sono un po' in questa linea di mezzo, in cui dicono che comunque sia bisogna rispettare il processo, diciamo, come vanno le cose, cioè bisogna rispettare l'aspetto legale, cioè c'è stato un processo, una giuria di 12 persone, tra i quali 3 afroamericani, ha deciso che non c'erano elementi per andare a un vero e proprio processo, per cui c'è anche questa un po' questa via di mezzo. Comunque è sicuramente un nervo scoperto questo, certo, che ha fatto, certo. Simone, invece, quanto al basket NBA, nella notte è arrivato anche il quarto fratello, Gigi Datome, finalmente un po' di campo anche per lui con Detroit. Sì, no? Non c'è da stare allegri se siete tifosi dei Pistons, perché oltre all'esordio stagionale di Datome c'è ben poco da sorridere, perché 9 sconfitte consecutive, un record disastroso. Se non ci fosse Philadelphia, che sono le squadre che stanno cercando di vincere, e non è il caso di Philadelphia, mi trovate quella che è il record peggiore. Datome è entrato nell'ultimo quarto quando erano sotto di 16, quindi una sorta di garbage time, per cui è molto bene che sia entrato anche con un buon atteggiamento. Speriamo che sia l'inizio un po' di almeno una che possa avere delle opportunità da parte di Stan Van Gundy, che fino a questo momento ha gestito in maniera stranissima il suo roster, perché se pensiamo che durante la pre-season, cioè quando tutti gli allenatori cercano di capire qual è la chimica giusta, quale può essere la rotazione giusta per loro, lui ha praticamente usato solo 7, 8, 9 giocatori, non danno una vera possibilità ad Atom utilizzando lo contagocce, è un po' strano. E adesso, sì, poi è stato sfortunato con 2 infortuni che non gli hanno permesso di essere a disposizione. Adesso sta bene, speriamo che magari abbia qualche opportunità. Sì, e anche perché se non gioca in questo momento in una squadra disastrata come Detroit, forse un pensiero al ritorno nel vecchio continente sarebbe il caso di farlo, al termine ovviamente di questa sua seconda stagione. Invece San Antonio, provincia di Bologna, cosa succede con Messina e Berinelli? A San Antonio va tutto gonfie vele, è veramente... Basket e tortellini per tutti. Esatto, questo club non finisce mai di stupire, di dare lezione a tutta la NBA, fa un turnover spaziale, lascia i suoi veterani in panchina quando vuole, fa il turnover addirittura del tecnico, lascia Popovic in panchina e la dà al nuovo arrivato Messina, e tutto funziona, tutto va sempre bene, 8 vittorie di fila con Beli che fa una schiacciata da cinema, dimostra di essere comunque non soltanto un giocatore perimetrale, ma e questo lo si sapeva, però è bello vedergli fare anche delle giocate da highlight così. Veramente in questo momento San Antonio sta dimostrando non solo di essere una squadra con cui bisognerà competere per vincere, ovviamente, per la campionessa, ma come campione in carica, ma il fatto, la loro filosofia di club è veramente unica e riescono a gestire la rosa, una rosa con i veterani in maniera straordinaria. Secondo me questo è veramente una lezione che Popovic ha portato la dirigenza di San Antonio da tutta l'NBA. Sì, sì, vabbè, d'altra parte sono un paio di lustri che, abbondanti che vincono lì, è davvero una, è diventata quasi una filosofia quella della squadra, e possono cambiare gli interpreti, ma la filosofia resta, hanno davvero costruito qualcosa di che rimarrà, credo, nel tempo, e penso dall'anno prossimo rimarrà nelle mani stabilmente di Ettore Messina, io credo. Beh, questo sembra possibile, perché è possibile che sia l'ultimo anno di Popovic, anche se Parker sta cercando di trovare il modo di convincere Popovic a rimanere anche nel dopo Duncan, vedremo. Secondo me Popovic deciderà verso fine campionato, sicuramente per segnale il fatto che Messina sia stato responsabilizzato così tanto da subito, sono segnali probabilmente importanti di un passaggio del testimone. Certo che, per tornare al discorso che facevi tu su San Antonio, è incredibile che noi nel 2009 forse praticamente avevamo già detto che ormai era l'ultimo anno era l'ultimo ballo, no? Sì, abbiamo detto un po' tutti quanti questi sono il 2014, probabilmente stanno difendendo il titolo in maniera straordinaria, per cui è veramente quello che stanno facendo è veramente pazzesco. Ma è la forza appunto della filosofia che va oltre gli uomini, gli interpreti e anche le carte d'identità certe volte. Grazie Simone, alla prossima, a presto. Ciao. Grazie Simone Sandri da New York. Un salto a Napoli dopo il traffico e poi uno a Bari. 800 24 00 24, numero verde, torniamo subito. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. La Vada dice che fino al 31-12 del 2014 il regolamento impone minimo 4 anni per questo tipo di reato. Minimo. Poi dal 1 gennaio 2015, grazie anche alle norme che abbiamo adottato nella recente giunta, questo discorso si può dimezzare. Cosa deve dire Giovanni Malagò, cittadino, uomo di sport, amico della Coster? Non sono d'accordo, non lo trovo giusto. Cosa deve dire il presidente del CONI? Devo stare in silenzio, non posso neanche parlare. Ma il problema qual è? Qual è la colpa del CONI in questa vicenda? Qual è la responsabilità del CONI in questa vicenda? Di aver applicato il codice? Di aver rispettato le leggi? Di aver fatto quello che la VADA ti dice che tu devi fare? Questa è la colpa? Allora, questo era presidente del CONI Malagò sulla spinosa vicenda di Carolina Kostner, come sapete, per la vicenda di Schwarzer e le bugie raccontate, è stata chiesta una lunga squalifica, 4 anni e 3 mesi, sembra paradossale visto che è una squalifica più lunga rispetto a quella di Schwarzer stesso. Ci sono però, c'è un regolamento dell'Agenzia Mondiale Antidoping, la VADA, letto, firmato e sottoscritto da tutti gli atleti, che impone quelle squalifiche di questo tipo. Io sono abbastanza favorevole a punizioni severissime in questi casi, cioè ti beccano a radiazione o comunque qualcosa di estremamente pesante. È chiaro che questa vicenda è particolare, va detto che la Kostner di balle ne ha raccontato un sacco, ragazzi. Giulio Bari, buongiorno. Buongiorno, ascolti, sono il tifoso dell'Atletico Madrid, si ricorda? Sì, come no, certo. Sì, eccoci. In questo momento non siamo proprio malissimi, però io ho avuto la fortuna di essere a Madrid per Atletico Malaga e Atletico Olympiacos, e la fortuna o sfortuna di non essere domenica per Atletico Deportivo. E le dico la verità, io frequento lo stadio, sono abbonato da 14 anni, proprio faccio parte del Frente Atletico come gruppo organizzato, e devo riconoscere che, come lei ben sa, anche in Italia le curve sono frequentate da, per fare un eufemismo, un 80% di gente per bene e un 20% di gente particolare. E l'episodio di domenica, che è gravissimo ed è sfuggito, infatti mi sarebbe piaciuto intervenire ieri, sì, è sfuggito al controllo della polizia per una serie di motivi, non ultimo il fatto che comunque la guerriglia è durata più di 40 minuti e in 40 minuti, pur essendo stata allertata la polizia, non si è presentata. Sì, sì, questo ci ha raccontato in presa diretta Filippo Maria Ricci domenica pomeriggio. Sì, sì, quindi le dico, una situazione paradossale, perché adesso hanno proibito, hanno vietato l'ingresso al Frente Atletico come gruppo ultra allo stadio, quindi vietando anche l'esposizione di bandiere, vessilli. Il problema è che però non possono scioglierlo come gruppo. Sì. Quindi alla ripresa del campionato tra 15 giorni sicuramente sarà un braccio di ferro, perché già c'è un tantam su Facebook, WhatsApp, e sarà una situazione, diciamo, paradossale, che spero non crei ulteriori incidenti per un'immagine dell'Atletico Madrid che in questo momento, ahimè, non è popolarissima. L'immagine del calcio spagnolo in questo momento non è popolarissima, è popolare, però è chiaro a tutto il mondo che questa vicenda è stata gestita nel modo peggiore possibile. Sì. Poi, se mi consente. Poi io sono per il tifo disorganizzato, Anch'io. Sono per la totale disorganizzazione, cioè nel senso che uno vuole, può fare il tifo per chi vuole, come lei lo fa per l'Atletico Madrid, va laggiù, prende il biglietto, va in tribuna, si siede dove ne ha voglia, dove ha scelto il suo posto e si comporta normale, cioè come uno che va a vedere, una manifestazione sportiva, un concerto o quello che volete. Dica. Esatto, l'ultimo flash su Cerci, perché ho avuto la fortuna di assistere agli ultimi allenamenti della settimana scorsa e devo dire, dalle informazioni che ho avuto anche dallo staff tecnico, mi hanno raccontato di Cerci che si è presentato il 31 agosto in un evidente sovrappeso. E che pur avendo svolto un piano, un programma specifico con il preparatore atletico, che è conosciuto per essere un sergente di ferro, pare che non abbia perso grandissimo peso nel corso di 3 mesi, e soprattutto che alcuni suoi atteggiamenti da divetto in campo e non lo spogliatoio a Simeone e a Godin e altri del gruppo storico non siano stati proprio L'avevamo immaginato, forse anche parlandone insieme, quando Cerci andò all'Atletico Madrid, peraltro lamentandosi via Twitter e tramite la compagna, fidanzata, moglie, non lo so, perché il calcio italiano non l'aveva riconosciuto. Ma come? Va a giocare nel club campione di Spagna, vice campione d'Europa, invece di fare i salti mortali nel capriole, dice: ah, però vado via, però un po' contro voglia, perché preferivo stare qui a casa mia a mangiare gli spaghetti. E no, cioè che ci fosse qualcosa di magari non tutti siamo uguali, lui preferiva effettivamente stare in Italia, ha vissuto questa trasferta spagnola, questo passaggio all'Atletico Madrid come un esilio. Può anche essere questo, infatti secondo me tornerà. Adesso, io credo davvero che uno delle voci più attendibili in questo momento sia il ritorno di Cerci in Italia, sponda Inter. Mario Napoli, buongiorno. Ciao, senti, noi qua a Napoli abbiamo un problema. Che arriva Balotelli. Senti? Sì, che arriva Balotelli. Chi arriva? Balotelli. Ah, allora abbiamo risolto. Qual è il problema? La vita notturna è un po' in tono minore a Napoli? No, seriamente, il problema è questo, che tanti tifosi non sono contenti di De Laurentiis, che pure secondo me ha fatto una gestione oculata molto buona in questi anni. Cioè, ci dimentichiamo che abbiamo vinto la Coppa Italia nonostante insomma qualche incidente di percorso, mettiamola così. Non dimentichiamo da dove si è partiti. Cosa ne pensate voi? Io tendo a non dimenticare da dove si è partiti in questo viaggio con De Laurentiis. Non ho mai, insomma, condiviso le contestazioni, che peraltro si ripetono già da un po', nei confronti della gestione di un presidente che ti ha preso laggiù dove non avevi neanche le magliette e i palloni per fare allenamento, e sei la terza forza del campionato, fai stabilmente le coppe europee, in alcuni casi divertendoti pure, perché secondo me l'obiettivo del Napoli in Europa, soprattutto in Champions League, deve essere quello di divertirsi, cosa che ha sempre fatto. Quindi queste contestazioni nei confronti anche di Europa League, ma l'Europa League la puoi fare anche per arrivare avanti, cioè per andare avanti. Secondo me, io ho sempre detto che uno degli obiettivi stagionali del Napoli seri debba essere un cammino lungo e dignitoso in Europa League, cosa che credo farà, perché l'atteggiamento è quello giusto. Quanto a Balotelli, stiamo grosso modo a scherzare. L'unica notizia vera è che i bookmakers inglesi dicono che Balotelli andrà via dal Liverpool, e la destinazione Napoli è la più accreditata, secondo i bookmakers inglesi. Marzio Davarese, facciamo giusto in tempo a salutarci. Buongiorno. Sì, buongiorno Genta. Senta un po', io no, volevo riallacciarmi al, al discorso delle, delle incongruenze della, della, della legislazione italiana, sia per quanto riguarda la COSER che per quanto riguarda l'ingresso agli stadi. Allora, io sono un abbonato del Milan da 40 anni. Faccio il conto che non mi ricordo più se 2 o 3 anni fa c'era il divieto dei tifosi napoletani di venire a Milano a vedere Milan-Napoli per ragioni di ordine pubblico, logicamente. Bene, io ho abbonato da 40 anni, mi arriva un cliente dalla Romania con il figlio di 12 anni, mi presento con il mio abbonamento, quindi un tifoso consolidato, per prendere il biglietto per entrare con questi miei, questo mio cliente, il figlio, che era e me l'hanno negato. No, ma siamo pieni, Marzio, siamo in chiusura, siamo purtroppo la, insomma, i racconti che possiamo fare sono molti su discrasie, su disfunzioni di questo tipo. È interessante raccoglierle, quindi continuate a chiamarci e a raccontarci, magari anche domani. 800 24 00 24, ore 14, dopo il giro dei 14, l'appuntamento. Franco Piantini dal nostro autore, Fabio Cantadori in regia, Daniele Buoni amici in redazione, ciao. Allora Dennis, ti vorrei ricordare qualche piccola difficoltà. La neve qui non ce l'avete, ci sono 40 gradi là fuori. Il tempo non ce l'avete, le Olimpiadi sono fra 3 mesi. E poi me, non avete me. Ti comunico che per me lo sport del pop ha cessato di esistere. Non lo voglio praticare, non lo voglio insegnare. E soprattutto, e dico soprattutto, voglio stare almeno 10.000 miglia lontano da chiunque lo pratica. Adesso mi sono spiegato, Dennis. E allora perché tieni quel manifesto sul muro? È quello che ti dà fastidio. Ecco. Così va meglio? Sei contento? Convocati.